Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata e bentornati a Salva Danaio. Riprendiamo insieme una settimana ricca di notizie finanziarie. Dalla borsa continuano ad arrivare, purtroppo sono pessime, ma questo è quello con il quale abbiamo a che fare in questo momento. Per quello che riguarda invece i temi di Salva Danaio, oggi torniamo sulla dichiarazione dei redditi, perché la stagione entra nel vivo e anche quest'anno credo qualcosa come 14 milioni di contribuenti fra dipendenti e pensionati presenteranno la denuncia dei redditi con il modello 730. Quasi tutti i lavoratori dipendenti hanno ricevuto con la busta paga il CUD, cioè la certificazione dei redditi percepiti nel 2008, e questo è lo strumento di partenza per mettersi in regola con le imposte da versare quest'anno e con gli eventuali sconti fiscali da chiedere alla pubblica amministrazione, all'amministrazione finanziaria. Ad aiutarci con la dichiarazione dei redditi di quest'anno, nel mare piuttosto complicato di deduzioni e detrazioni possibili, oggi abbiamo chiamato un esperto, Luca Baldameri, studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati. Ho detto tutto correttamente, dottore? Perfetto. Grazie di essere con noi, buongiorno. Grazie. E quindi lo getteremo in pasto ai nostri ascoltatori, speriamo che ne venga fuori vivo. 800 24 00 24, perché questo è un tema sempre piuttosto complicato, tra l'altro immagino anche per voi in questo momento studi affollati o comunque pieni di carte con cui insomma confrontarsi in questo momento. Sì, la stagione dichiarativa è appena proprio gli inizi. Molti probabilmente devono ancora ricevere i certificati del sostituto d'imposta, però bisogna incominciare probabilmente a raccogliere la documentazione, a predisporre insomma tutta quella documentazione che sarà poi necessaria da consegnare al professionista incaricato, che sia il CAF, che sia un professionista individuale, per poter beneficiare degli sconti. E infatti noi in genere ci occupiamo di questo tema prima della scadenza e della presentazione poi di tutta la documentazione al sostituto d'imposta, e dunque la prima raccomandazione è proprio questa: cominciate a fare ordine fra tutti i documenti che potete poi utilizzare per ottenere, se avete diritto, anche gli sconti fiscali previsti per quest'anno. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, invece per le vostre domande, per intervenire in diretta 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Come sapete, però, prima abbiamo l'impegno del controllo della giornata di borsa, che è una giornata di nuovo piuttosto pessima, un mercato che risente ancora del dato sulla disoccupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso, un tasso record all'8,1%. L'economia reale sta andando sempre peggio, ma questo lo sapevamo. Il comparto finanziario non aiuta in una fase che è già delicata per conto suo, anzi continuano ad andare giù i titoli del settore bancario, e anche oggi in Europa si sta replicando, colpa delle notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, dove c'è un altro istituto in procinto di essere nazionalizzato dal governo. Parliamo di Lloyds Bank. I titoli stanno scendendo parecchio a Londra, ma curiosamente il listino inglese non è il peggiore in Europa, perché perde l'1,23%, segue Francoforte con un calo di 1,5%, Parigi sta scendendo del 2,36%, le vendite invece stanno di nuovo travolgendo i titoli del comparto bancario di Piazza Affari, meno 3,82% per il principale paniere, per l'S&P MIB 40, i titoli che scendono di più: Seat pagine gialle, meno 9,53, Banco Popolare meno 8,99, Ubibanca meno 8,56, Intesa San Paolo meno 6,40, la Banca Popolare di Milano perde 6 punti, Generali meno 6, Mediobanca meno 6, abbiamo anche Prismian che perde 6 punti, Telecom meno 5,86, Mediaset meno 5,44, Monte dei Paschi meno 5,22, insomma il tenore è sempre questo, non riusciamo proprio a cambiare argomento. Non c'è nessun titolo positivo, ce n'è uno che guadagna pochissimo, più 0,22% per Geox, fino a poco fa guadagnava più di un punto Eni, grazie al petrolio che è ritornato sui $46 al barile, ma anche Eni di nuovo fa marcia indietro, adesso perde lo 0,16%. E quindi questa è la giornata che, dunque, visto il tenore che ha, direi di lasciare immediatamente. Torneremo più avanti a raccontarvi della giornata di borsa, adesso invece andiamo alla nostra quotidianità, che è sicuramente fatta anche di mercato e di mercati finanziari, ma più di tutti in questo momento è fatta di scadenze fiscali. Oggi allora vi proponiamo la nostra guida al 7.30. La stagione delle dichiarazioni fiscali è ormai nel vivo. Il primo modello a scendere in pista, come sempre, è quello semplificato, il modello 730, che si rivolge a circa 14 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati, e che quest'anno riserva alcune novità. Innanzitutto, la possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di richiedere il bonus famiglia previsto dal decreto anticrisi e la detrazione del 19% riconosciuta agli studenti universitari fuori sede, anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Aumenta a 4.000 euro il limite per gli interessi pagati sui mutui ipotecari per l'abitazione principale, convertibili nella detrazione IRPEF del 19%. Da quest'anno è possibile inoltre sfruttare la detrazione del 19% anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico e per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Accanto alle novità, si potrà comunque beneficiare ancora dello sconto del 55% e del 36% per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia e del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori. Come sempre, è importante prestare attenzione alla tempistica. Per la presentazione del modello al datore di lavoro o ente pensionistico c'è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati la scadenza è il 1 giugno 2009. Più tempo a disposizione invece per la presentazione del modello unico, che da quest'anno è affiancato anche da una versione mini per i contribuenti che si trovano in situazioni poco complesse. Il vantaggio del nuovo modello sta infatti nella riduzione del numero dei quadri e, conseguentemente, delle istruzioni da leggere. Per quanto riguarda invece scadenze e modalità di presentazione, valgono le stesse regole del formato unico tradizionale. Entrambi i modelli, infatti, devono essere trasmessi telematicamente entro la nuova scadenza del 30 settembre 2009. Possono presentare il modello cartaceo presso un ufficio postale entro il 30 giugno 2009 solo coloro che, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati nel 7.30, sono privi del sostituto d'imposta. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, ma come sapete ci potete anche scrivere alle 349 238 6666. Vedo già i numerosi casi che i nostri ascoltatori contribuenti stanno ponendo alla nostra attenzione. Ci sono molti casi anche piuttosto specifici e particolari, speriamo di poter accontentare la maggior parte di voi. Dottor Valdameri, tra le novità di quest'anno sicuramente forse il più interessante è questo debutto del modello unico in formato mini. Sì, esatto, che è una dichiarazione che si pone a metà fra il 7.30 e l'unico classico. Hanno pensato di introdurre questo modello semplificato rispetto all'unico ordinario sostanzialmente per quei lavoratori dipendenti che non hanno più un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione e quindi non si possono avvalere del modello semplificato con il 7.30. Infatti può utilizzare l'unico mini essenzialmente chi avrebbe requisiti per fare il 730, quindi non ha la partita IVA, non deve dichiarare redditi particolari e chi non ha variato il domicilio fiscale al 1 novembre del 2007. In questo modo l'unico mini consente una compilazione più veloce e la presentazione comunque rimane essenzialmente quella telematica, tranne nel caso in cui la persona dichiarante non abbia potuto presentare il 730 perché non aveva un sostituto d'imposta e quindi è ancora consentito presentare la dichiarazione attraverso il metodo cartaceo, quindi a un ufficio postale, che è una modalità di presentazione che pian piano tende sempre di più a scomparire e nell'ottica di informatizzare tutto il processo. Di digitalizzare tutta la pubblica amministrazione anche. Qualora si scoprisse compilando il modello mini che abbiamo diritto ad un credito d'imposta, poi questo come ci viene erogato? Beh, allora normalmente se emerge un credito dalla dichiarazione per effetto di detrazioni o oneri deducibili, ho la possibilità di scegliere fra due alternative. Posso riportare il credito all'anno successivo, quindi nell'ipotesi in cui non abbia un sostituto quest'anno, quindi non abbia potuto fare il 730, posso riportare il credito e l'anno successivo lo posso recuperare con il 730, che è la modalità normalmente più veloce di recupero del credito, oppure in alternativa posso direttamente in sede di dichiarazione chiederlo a rimborso. Ci pensa insomma l'amministrazione finanziaria a farlo avere in qualche modo, ma in genere come ci si Sì, i tempi normalmente sono un po' più lunghi, però devo dire che negli ultimi anni, anche per effetto dell'informatizzazione e con la possibilità di comunicare all'amministrazione finanziaria il proprio conto corrente, i tempi dei rimborsi si sono velocizzati notevolmente. Eh sì, perché in genere abbiamo la percezione che quando dobbiamo pagare le tasse l'amministrazione ci trova molto rapidamente, l'amministrazione fiscale, quando deve invece avvenire un procedimento al contrario, deve restituirci qualcosa, i tempi della ricerca sono procrastinati, non si sa per quale motivo. Comunque questo ormai è, come dire, un meccanismo al quale ci siamo abituati. Tra le altre novità di quest'anno, secondo lei quali sono le più interessanti da segnalare, dottor Valdameri, per quello che riguarda appunto la dichiarazione dei redditi, che non è direttamente legato alla dichiarazione, quella che vi ha reso la vita più difficile quest'anno? No, secondo me quello che ha confuso di più nel periodo novembre-dicembre era la detrazione, quella per il risparmio energetico del 55%. Non lo dica a noi di Salvadanaio. Ci sono state settimane di panico. È vero. Dove c'era questa istanza da presentare in via telematica, questa lotteria, insomma, di questa graduatoria che doveva iniziare, se non sbaglio, il 15 di gennaio, a metà gennaio. Poi fortunatamente l'allarme è rientrato e quindi la detrazione del 55% relativamente ai lavori realizzati lo scorso anno è stata mantenuta, non c'è nessun tetto e nessun esatto. limite, quindi sono confermate le... È ritornata tutta la linea preesistente, praticamente, con l'unica novità che invece adesso per chi intende fare lavori deve presentare la notifica all'Agenzia delle Entrate in via preventiva. Esatto, se non ricordo male. Diciamo simile a, idealmente, a quella che si fa per la detrazione del 36% per le ristrutturazioni normali. Bisogna mandare la raccomandata al centro operativo di Pescara. Nel caso di detrazione per risparmio energetico bisogna mandare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza. Mm-hmm. Però, e anche il periodo forse su cui lo sconto può essere fatto valere, mi sembra che sia allungato a 5 anni. Sì, però solo per le spese dal 2009. Esattamente. Quindi quelle 2008 li hanno salvaguardate. In ogni caso ci ritorna tutto quello di cui abbiamo, a cui sì. abbiamo diritto. Allora, le novità sono tante, dicevamo, avremo anche modo magari di ritornare rapidamente sul bonus straordinario, sul bonus famiglia. Ne abbiamo parlato spesso, anche perché c'è la possibilità di fare la domanda a seconda del periodo d'imposta che si intende far valere. Vedremo anche come questo si incrocia poi con la dichiarazione dei redditi. Ci sono delle modalità di tassazione sui compensi di lavoro straordinario differenti e tante altre cose, però siccome i nostri ascoltatori sono sempre molto bravi a concretizzarci poi le trasmissioni, allora direi di cominciare subito a sentirli. Silvana da Roma, benvenuta a Salvadanaio, l'ascoltatrice che oggi inaugura il nostro Buongiorno. Giro di telefonate. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno dottore. Senti, io le volevo fare una domanda. Ho un mutuo contratto a febbraio 2008. Ora il 730 mi dice che io posso detrarmi le spese notarili anche insieme agli interessi passivi fino a un massimo di 3.600 euro circa, insomma. Io vorrei capire, se io ho un mutuo di 300.000 euro e pago tantissimi interessi, con 3 mesi io ho già finito gli interessi. Sì, esattamente. E le spese notarili? Allora, intanto la buona notizia è che il tetto è più stato alto. Aumentato a 4.000 euro. Quindi questa è la buona notizia, non è più 3.600 euro, l'hanno aumentato a 4.000. La cattiva è che una volta superato il limite che può essere inserito in dichiarazione che dà il diritto alla detrazione, in realtà tutti gli interessi e le spese aggiuntive che in teoria darebbero diritto alla detrazione sono perse. Certo. Quindi dipende poi dal piano di ammortamento del mutuo. Ovviamente se nei primi anni gli interessi superano unitamente alle spese notarili di 4.000 euro, l'eccedenza è definitivamente persa, non può essere riportata agli anni successivi. Infatti Silvana, d'altronde nella sua situazione si troveranno in molti, perché in questi ultimi anni abbiamo compreso quanti mutui siano stati chiesti e derogati dalle banche, e anche gli importi sono aumentati notevolmente, per cui questo ovviamente è un aspetto da considerare quando poi cerchiamo di capire come funziona anche la detrazione del 19% per gli interessi pagati sui mutui. Tra l'altro questo ci dà anche l'assist, dottor Valdameri, per spiegare cos'è la certificazione che ci sta mandando la banca in questo periodo, dove proprio ci viene documentato tutto l'ammontare degli interessi che abbiamo versato lo scorso anno. Sì, normalmente la banca manda una certificazione nella quale vengono attestati appunto gli interessi passivi pagati nel corso del 2008 che danno diritto alla detrazione. Vi ricordo però che quando l'amministrazione finanziaria vi viene a chiedere la documentazione attestante il diritto a questa detrazione, la documentazione da conservare è molto più corposa. Esattamente, non è solo quello che ci manda la banca. Bisogna conservare la copia dell'atto di acquisto dell'immobile, la copia del mutuo, bisogna insomma essere in grado di dimostrare che effettivamente quel mutuo è stato acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, che gli interessi siano stati pagati. E quindi il mio consiglio è non non conservare solamente la certificazione della banca, che può contenere delle informazioni tutto sommato limitate rispetto alle caratteristiche del mutuo, ma conservare sempre tutta la documentazione notarile che vi è stata consegnata quando avete acceso il mutuo. Infatti, anche se state facendo la dichiarazione, state dimostrando all'amministrazione fiscale che pagate la rata del mutuo e i relativi interessi da più anni, quindi non è che perché abbiamo già presentato tutta la documentazione 2-3 anni fa o l'anno scorso l'amministrazione fiscale si accontenta. Ogni anno dobbiamo riazzerare il nostro rapporto anche con il fisco. Sì, qua è ancora un po' in realtà un rapporto fra amministrazione e contribuente che deve ancora stabilizzarsi, perché... No, ma d'altronde il problema è che comunque la situazione può cambiare, posso aver venduto la mia casa, pertanto forse per questo che l'amministrazione ha bisogno di sapere. Si deve tenere presente che in realtà lo statuto del contribuente in teoria proibisce, vieta all'amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente informazioni di cui è già in possesso. Se consideriamo che tutto quello che io faccio per acquistare l'immobile viene registrato all'agenzia del territorio, quindi sono perfettamente a conoscenza, no? Il mutuo, il rogito, di quello che ho fatto, di qual è la mia, e lo vedo anche nel mio cassetto fiscale, se l'ho richiesto, però devo constatare che normalmente gli uffici periferici, gli uffici locali richiedono sempre e comunque l'informativa completa. Per cui il mio consiglio è sempre tenetevi la fotocopia di tutto pronti a consegnarla. Che ce ne facciamo di questo statuto del contribuente? Dovremmo fare una trasmissione. Bella apposita, esattamente, magari la faremo così per spiegare anche quali diritti abbiamo in qualità di contribuenti, magari sempre molto attenti e seri verso l'amministrazione, perché poi non tutti ovviamente lo sono, altrimenti non avremo a che fare con questo ampissimo problema di evasione fiscale nel nostro paese, ma questo è un altro argomento e noi ne parleremo in un'altra circostanza. Per quello che riguarda invece la tassazione sui compensi per il lavoro straordinario, ci sono state anche delle novità su questo, molto importanti quest'anno. Beh, la novità è che il regime transitorio che era stato introdotto lo scorso anno e che si applicava agli straordinari e al lavoro e ai premi di risultato è stato esteso solo per quanto riguarda i primi risultati, anche all'anno 2009, hanno aumentato il limite reddituale per il quale spetta questo regime particolare di tassazione del 10%, da 30 l'hanno portato a 35.000 euro e il limite del bonus l'hanno portato a 6.000 euro. La novità a livello di dichiarazione dei redditi di quest'anno è che il contribuente che l'anno scorso ha percepito o non ha percepito questo bonus assoggettato alla tassazione forfettaria del 10%, ha la possibilità in sede di dichiarazione di rettificare il proprio comportamento. Quindi sostanzialmente, mettiamo un caso semplice, l'anno precedente l'aspettanza di questo regime particolare era legata al reddito 2007. Se nel 2007 io mi accorgo in sede di dichiarazione dei redditi che non avevo diritto perché ho superato il limite reddituale di 30.000 euro, posso in sede di 730 andare a rettificare le mie posizioni, quindi ripristinare la tassazione ordinaria. Dal 10 la porto sulla mia aliquota marginale. Viceversa, se il datore di lavoro, erogandomi un compenso straordinario, erogandomi un bonus, ha ritenuto di non applicare questo regime particolare, magari per eccesso di potenza, perché riteneva non fossero sussistenti le condizioni, io ho la possibilità di avvalermene in sede di dichiarazione. Bene, quindi c'è anche questa opportunità. Allora, io sentirei Marino da Padova, gli faccio fare la sua domanda, al quale poi rispondiamo nella seconda parte di Salva Danaio. Marino è caduto, allora sentiamo invece Bruno da Bari, che forse ci mette un po' più a dura prova. Bruno, intanto abbassi per carità la radio, perché sennò i nostri timpani, poveri noi. Va bene. Bruno, benvenuto, ci dica. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Il quesito riguarda un'abitazione ricevuta in eredità per successione legale, quindi senza testamento, dal coniuge e da due figli maggiorenni. Vorrei sapere se l'immobile deve essere dichiarato solo dal coniuge, che ha per legge diritto di abitazione, o anche dei figli, e se non sono fuori tema, lo stesso quesito ai figli e se è necessario presentare dichiarazione per variazione. Allora Bruno, io grazie, vi ascolto per radio. Sì, grazie Bruno. Allora, dottor Valdameri, la faccio riflettere. No, ma la domanda è molto chiara. Ah, benissimo, guardi, io l'avrei... Cerco di rispondere, vediamo se poi è soddisfatto. Lo facciamo nella seconda parte di Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina ci siamo tuffati più o meno volentieri, è una, come dire, una problematica che ci tocca affrontare in questo periodo dell'anno. Ragioniamo sulla dichiarazione dei redditi, appunto relativa ai redditi percepiti lo scorso anno, quali sono i diritti che l'amministrazione fiscale ci conferisce quest'anno in termini di risparmi, ma soprattutto quali sono anche i doveri che abbiamo in termini di versamento di imposte. Quindi è tempo di mettere sulla bilancia tutte le spese che abbiamo sostenuto, per le quali abbiamo diritto a deduzioni o detrazioni, e magari anche tutte le altre cose che abbiamo fatto per le quali abbiamo diritto allo sconto, per esempio se abbiamo sottoscritto un mutuo, oppure se abbiamo fatto il lavoro di ristrutturazione della nostra casa, se abbiamo acquistato anche dei medicinali, perché anche questo è un aspetto interessante. Ci sono tanti aspetti con cui confrontarci. Ovviamente noi abbiamo bisogno, quando parliamo di questi temi, di validi professionisti. Questa mattina con noi Luca Valdameri dello studio Pirola Pennuto Zei e Associati di Milano. 800 24 00 24 è il numero verde per voi. Eravamo rimasti al caso di Bruno da Bari, che ha ricevuto un'abitazione in successione, in eredità, legittima da quello che ho capito, e allora chiedeva come orientarsi in fase di dichiarazione dei redditi, visto che è cambiata appunto la sua situazione di proprietario. Sì, sì, se ho ben capito, si tratta di un caso dove il coniuge superstite utilizza l'immobile ricevuto in successione come abitazione principale. In questi casi il diritto di abitazione che spetta per il codice civile al coniuge superstite rientra fra i diritti reali, quindi il coniuge superstite, se effettivamente abita quell'immobile o lo utilizza come abitazione principale, deve dichiarare interamente tutto il reddito del fabbricato. Quindi anche gli altri eredi, sostanzialmente, pur avendo un diritto di proprietà sull'immobile ricevuto in successione, non hanno alcun obbligo dichiarativo. Questo vale ovviamente sia ai fini della deduzione per l'abitazione principale, quindi la rendita catastale in sede di dichiarazione viene compensata esattamente da una deduzione equivalente, quindi non ci sarà una tassazione ulteriore in sede di dichiarazione dei redditi, sia per quanto riguarda l'ICI, quindi l'imposta comunale che sull'abitazione principale, ricordiamo, è stata eliminata. Per quanto riguarda invece la comunicazione della variazione al comune di residenza dove si trova l'immobile, lì dipende normalmente dal regolamento del comune. Quasi tutti i comuni normalmente non richiedono la presentazione di una dichiarazione in caso di successione, cioè la normativa prevede un trasferimento diretto delle informazioni dall'Agenzia del Territorio all'amministrazione comunale, e quindi non è richiesta più la presentazione di alcun tipo di denuncia o dichiarazione. Sì, è comunque consigliabile in questo caso, dove rimane questo diritto di abitazione sull'immobile, probabilmente informarsi presso il comune in modo tale da evitare eventuali disguidi e contestazioni future magari da parte dell'amministrazione fiscale. Allora, esatto. Pia da Savona, buongiorno. Oggi stiamo davvero esplorando tutti i campi di intervento del fisco. Pia, può abbassare la radio? Sì, Pia, buongiorno. Buongiorno, senta, mio figlio ha seguito una domanda di riscatto laurea presentata ad aprile 2007, sì. Sta pagando le rate. Sì. Ora, io volevo sapere se erano interamente deducibili, dato che una piccola quota sono anche interessi. E poi se per fare le deduzioni è sufficiente presentare i bollettini di pagamento. Allora Pia, qua l'abbiamo messo in difficoltà, speriamo di no, perché poi capisco no. Che anche se i nostri professionisti sono stra preparati, ovviamente poi nei casi specifici andarci ad infilarsi dentro è complicato. Sì. Come ci si comporta con il riscatto della laurea? Allora, dalla domanda mi sembra di capire che questa è una domanda, chiamiamola così, vecchia, quindi è una domanda, visto che ci sono degli interessi, è una domanda presentata, diciamo, col vecchio regime. Mm-hmm. Il vecchio regime prevedeva la deducibilità del costo sostenuto per il riscatto della laurea, comprensivo degli interessi, e però su un periodo corrispondente alla durata del corso legale della laurea per la quale è stato chiesto il riscatto, mentre la novità è che per le domande presentate in relazione a corsi di laurea che si sono conclusi dopo il 1995 la deducibilità è possibile richiederla su un periodo, quindi il pagamento su un periodo di 10 anni senza l'aggravio di interessi. Interessi, sì, infatti l'abbiamo fatto anche settimana scorsa. Comunque non c'è il periodo più breve nel caso della signora, però non c'è limite alla deducibilità dell'interesse del onere sostenuto per il riscatto. Il fatto invece che il riscatto della laurea possa essere fatto per esempio dai genitori per un ragazzo che non ha ancora iniziato a lavorare, ma ovviamente questo è un impegno finanziario piuttosto consistente del quale appunto si intende incaricare la famiglia. In questo caso il nucleo familiare ha diritto però agli incentivi fiscali, chiamiamoli sì, così. Però la deduzione si trasforma in una detrazione del 19%. Quindi in base poi all'aliquota marginale dei familiari può essere meno conveniente, quindi potrebbe essere più conveniente aspettare addirittura iniziare a lavorare e farselo iniziare a lavorare, farsi fare il calcolo e poi andarsi a dedurre dal proprio reddito personale, quindi dell'ex studente lavoratore, l'importo del riscatto. La convenienza potrà essere come dire individuata nel fatto che se ce la fa mamma e papà sì e poi anche sul meccanismo di calcolo dell'onere per il riscatto, perché se la persona non ha ancora iniziato a lavorare ci sarà un onere molto basso, se la persona si ricorda di fare l'istanza all'INPS dopo qualche anno che lavora, i redditi sono saliti, ovviamente l'onere del riscatto sarà notevolmente superiore, un po' più alto. E invece se lo si fa il riscatto della laurea nella fase in cui si è in procinto di andare in pensione, magari si possono riscattare solo parzialmente gli anni del corso di laurea, mi sembra di sì, è possibile fare un riscatto parziale come è possibile in realtà anche versare in un'unica soluzione. E esatto. Quindi lì ovviamente la situazione va valutata caso per caso, però i 5 anni, 4 anni del corso legale, se sono utili poi effettivamente ad acquisire il diritto alla pensione, considerata la continua evoluzione del sistema pensionistico italiano sull'età pensionabile, i contributi, il sistema misto, il sistema contributivo, magari uno sforzo economico oggi può assicurare un più veloce accesso alla pensione e quindi il recupero si fa in un tempo più breve. E infatti chissà fra 20-30 anni a che età andremo in pensione, perché insomma ci mettiamo anche noi due probabilmente in questo discorso. Comunque 800 24 00 24, mi spiega, io lo chiedo sempre ai nostri esperti di tematiche fiscali, di darmi una definizione di deduzioni e detrazioni, perché io per quanto possa aver fatto 2000 trasmissioni su questo argomento non riesco mai ad individuare una differenza netta fra i due campi. Allora, in generale la deduzione è un onere che io sottraggo al mio reddito imponibile complessivo, quindi sostanzialmente se ho un'aliquota marginale sopra del 39%, se ho un onere deducibile il mio risparmio di imposta è del 39%, invece la detrazione normalmente prevede un'aliquota di detrazione fissa. Quindi, ad esempio, le spese mediche c'è la detrazione del 19% ed è una detrazione che io vado a calcolare sull'onere, vado a sottrarre dall'imposta, ma che non è funzione del mio reddito. Quindi normalmente la detrazione fissa era stata pensata per agevolare i redditi più bassi, perché determinando la detrazione del 19% in realtà l'obiettivo era quello di avere comunque un'indifferenza fra deduzione e detrazione, considerando che il primo scaglione dell'aliquota è circa il 23%, senza considerare le addizionali regionali e comunali, e quindi si equivalgono per i redditi bassi. Per i redditi alti rimane la detrazione del 19% e quindi si perde per strada un po' il vantaggio, certo. Sì. Marino dalla provincia di Padova, l'abbiamo ripescata, era con noi all'inizio, poi è svanito, eccoci qua. Buongiorno Marino. Trasmissione, niente, io sono un ragazzo extracomunitario, vivo qua da quasi 14 anni e faccio lavoro dipendente con un mutuo da 3 anni. Sì. Dicembre 2007 io ho fatto un ricongiungimento familiare, ho avuto mamma e papà, i genitori a carico. Sì, da dove arrivano i suoi genitori, Marino? Albania. Sì. Volevo sapere cosa cambia, visto che sono novità in corso e tutto ciò che va dietro. Insomma, volevo sapere cosa cambia adesso, visto che loro non hanno un lavoro e non hanno un reddito. Sono tutto a carico mio al 100%. Eccoci ritrovati a Salvadanaio per gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione. Oggi ci siamo tuffati, come dicevamo, nella dichiarazione dei redditi. È tempo di radunare tutta la documentazione per metterci a posto quest'anno con il fisco. Abbiamo alcune esperienze, tra l'altro, di lavoratori stranieri che stanno nel nostro paese. Abbiamo sentito Marino dalla provincia di Padova, che si è ricongiunto nel 2007 con la propria famiglia. I suoi genitori adesso sono totalmente a suo carico. Tra l'altro poi abbiamo anche una mail di un'ascoltatrice invece spagnola, sulla quale volevamo intervenire lo stesso. Dottor Valdameri, allora, il nostro ascoltatore di Padova. Sì, buongiorno Marino. Allora, bisogna considerare che per il fisco italiano un familiare si può considerare a carico se ha un reddito personale inferiore a 2.840 euro. Quindi mi pare di capire che... Che ci siano le condizioni. Allora, i genitori sono considerati altri familiari a carico e spettano una detrazione di 750 euro. Questa detrazione, come per il mutuo, l'interesse sul mutuo dell'immobile che ho acquistato, può essere fatta valere in sede di 730. Ovviamente quindi lui dovrebbe solo comunicare al suo sostituto d'imposta che è cambiata la sua situazione anagrafica, praticamente, il suo certificato di famiglia. Esatto, può già comunicarlo nel modulo che viene trasmesso dai datori di lavoro a inizio anno per i carichi di famiglia. Mm-hmm. Però ovviamente se sono arrivati lo scorso anno non ha fatto in tempo probabilmente. In realtà sono arrivati nel 2007, per 2007. Cui Marino già avrebbe dovuto fare tutto questo l'anno avrebbe scorso. Avrebbe già dovuto, in realtà il datore di lavoro avrebbe già dovuto tenerne conto sulla base di quel modulo dove vengono inseriti tutti i carichi di famiglia. Quindi non so se è stato compilato correttamente, comunque nulla è perduto, è possibile farlo in sede di 730 e quindi recuperare il credito, quindi la detrazione nel corso del mese di luglio. Il datore di lavoro automaticamente riconoscerà il rimborso in sede di 730, come l'ha fatto gli anni scorsi per gli interessi passivi sul mutuo. Beatriz, sono spagnola, sono residente in Italia, mio marito è impiegato pubblico, ha una casa di proprietà, io ho i miei beni in Spagna e abbiamo la comunione dei beni. Come dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi? Allora, si toccano vari aspetti della dichiarazione dei redditi, perché i residenti fiscali italiani, quindi anche la signora Beatriz, avrebbe l'obbligo di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti come residente fiscale italiana. Quindi, ad esempio, se ha un immobile in Spagna che viene locato, che viene affittato, il reddito del fabbricato in Spagna, nella stessa base imponibile determinata dalla normativa spagnola, deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi italiana. Bisogna pagarci le imposte e poi c'è il diritto a un credito per le imposte pagate in Spagna. A questo è correlato un altro adempimento, che è quello del famigerato quadro RW, nel quale vanno indicate il valore di tutte le attività finanziarie detenute all'estero dai residenti fiscali italiani. Quindi per un italiano che vive, lavora, sempre vissuto in Italia, non è frequente avere attività estere, ma per lo straniero che si è trasferito in Italia può aver mantenuto il conto corrente in Spagna, può avere l'immobile in Spagna che non usa più e che quindi ha affittato. Ecco, ricordatevi sempre che c'è un obbligo preciso in Italia di dichiarare sia il reddito sia il patrimonio estero, e che le sanzioni per la violazione di questo obbligo sono abbastanza elevate. Pesanti. Sì. Francesco d'Arezzo, abbiamo raccolto volentieri la sua testimonianza perché quest'anno, data la crisi economica, abbiamo la sensazione che nella situazione come la sua ci si possano ritrovare in molti. Allora cercheremo di darle una mano. Francesco, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Ascolti, l'azienda per cui lavoro sta per fallire e da ottobre non ci paga e non ci darà nemmeno il CUD. Come devo fare per la dichiarazione dei redditi? Allora Francesco, io credo che questo sia un adempimento dal quale l'azienda non può sottrarsi assolutamente. Sì, assolutamente. L'azienda, in relazione ai compensi che le ha corrisposto nel corso del 2008, dovrebbe certificare le ritenute applicate attraverso il modello CUD. No, anche perché io all'inizio ho detto quasi tutti i lavoratori dipendenti lo avranno ricevuto in questo momento. In realtà non è detto, perché molti percepiscono magari lo stipendio di febbraio a fine marzo e quindi io magari posso essere un caso a parte. C'è però un termine che normalmente è il 28 febbraio, però direi che c'è abbastanza elasticità, visto che comunque il termine per presentare il 7.30 è il 30 aprile, quindi c'è tempo, e normalmente i datori di lavoro, a seconda se fanno le paghe internamente o le danno all'esterno, ritardano quasi tutti a consegnare il CUD. Però nel caso del signore direi che la società dovrebbe comunque rilasciare il CUD e il recupero di eventuali oneri deducibili o detraibili, come abbiamo visto prima, può avvenire con il modello mini. L'unica differenza sostanziale è che nel modello mini non si avrà il rimborso degli oneri in sede di cedolino del mese di luglio, ma bisognerà optare una scelta in sede di dichiarazione fra il rimborso, che arriverà dopo un anno, dopo due anni. Addirittura utilizzando questo modello? I tempi sono sempre. E che cosa ha velocizzato abbastanza, allora? Attorno all'anno, poi dipende dall'importo del rimborso. Diciamo che allora quest'anno, sì, date le casse dello Stato. Esatto. Ci sarà qualche forse rallentamento in più, quindi no, ma questa è questa parte, come dire, anche il tono scherzoso che utilizziamo a volte per affrontare certi aspetti. Tornando al modello mini, siccome ci aveva scritto anche Piero da Catania, che diceva chi ha soltanto redditi da lavoro dipendente deve soltanto detrarre alcuni oneri, deve necessariamente fare il modello 730 o può usare anche il modello unico semplificato? Beh, qua al contrario, il mio consiglio è che se si ha la possibilità di fare il 730 e si hanno degli oneri deducibili o detraibili, è sempre meglio utilizzare questo modello, perché questo modello assicura comunque un rimborso nella mensilità di luglio. In alternativa posso fare il modello mini, ma dovrò sempre optare fra il riporto a nuovo e la richiesta a rimborso. Se diventa, può capitare, un tema di privacy per cui il dipendente non vuole consegnare 730 al proprio datore di lavoro, capita far vedere molto spesso anche questo, così, ci hanno fatto anche molte domande in questo senso. È possibile rivolgersi a un CAF o a un professionista esterno, il quale consegnerà al datore di lavoro solamente il modello di 730 relativo all'importo da rimborsare, ma non darà evidenza della composizione delle dichiarazioni dei redditi, quindi se ci sono immobili, se ci sono detrazioni, deduzioni per particolari patologie che non si vogliono far conoscere in azienda, è possibile non farglielo sapere sostanzialmente utilizzando un professionista esterno, un CAF, quindi non utilizzate il CAF aziendale, ecco. Allora, prima dell'ultima domanda io vi farei sentire invece la nostra pillola del lunedì. Vi ricordo che da domani potete trovare in edicola con il Sole 24 Ore il quarto volume della storia dell'economia mondiale, dal titolo Principi e finanzieri, compagnie commerciali e mercanti imprenditori, lo sviluppo delle economie urbane in Europa. Sentiamo una pillola tratta da questo volume. La città è un luogo centrale con carattere multifunzionale. È prima di tutto un centro politico-amministrativo. È anche un centro religioso. Essa è centro sociale per gli scambi fra individui che si originano in conseguenza dell'agglomerazione urbana. Essa è sempre anche centro di produzione e di scambio di beni economici. Specialmente in Europa, a partire dal Medioevo, le sue attività produttive, commerciali, bancarie e industriali sono state più rilevanti che nelle città antiche e in quelle asiatiche. Città di produttori, dunque, anziché di consumatori, a quanto ebbe a scrivere Max Weber a proposito della città europea. L'ultima domanda di oggi la assegno a Paola dalla provincia di Milano, che mi promette di essere brevissima, Paola, e anche di abbassare la radio. Buongiorno. Paola? Sì, sono io. Sì, buongiorno, ci dica rapidamente. Dunque, innanzitutto mi sto facendo una cultura meravigliosa e vi ringrazio. Grazie a lei, Paola. Secondo, volevo sapere se la beneficenza fatta alle fondazioni religiose, tipo quelle di Via Lopiave, dei Frati, eccetera, si possano detrarre dal 7.30. Poi volevo chiedere altre cose, ma lasciamo non ce perdere. La Paola, ma ci ritorniamo. Grazie. Su questi argomenti. Lei rimanga con noi, che continua a farsi una cultura meravigliosa con il fisco, un'impresa ardua, sì. Però Paola si accontenta anche di questo. Allora, come può fare? In generale, la normativa fiscale prevede un elenco tassativo delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose che possono essere portate in deduzione dal reddito. E quindi normalmente sono l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane 27 Giorni. L'organismo a cui l'ha fatto Paolo eventualmente può mandare a Paolo la certificazione in base al quale dei versamenti fatti, in base al quale lei può capire se... Esatto, bisognerebbe vedere dalla certificazione che rilascia a quale tipologia di deducibilità o detraibilità dell'onere appartiene questa spesa. Dottor Valdemeri, io la ringrazio molto per essere stato con noi al debutto radiofonico, mi sembra che posso dire che è stato promosso a pieni voti, per cui torneremo a disturbarla di nuovo per la dichiarazione dei redditi. Grazie anche a Gaia Romani per la collaborazione in redazione insieme a Valeria Coffaro, a Peter Bescapè in assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani, vi auguro una buona giornata.